Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Oggi parliamo di febbre da gioco. Qual è quell'italiano che negli ultimi anni non si è lasciato tentare da gratta e vinci, slot machine, macchinette, videopoker, poker online, di tutto di più? Febbre da gioco che contamina sempre di più gli italiani, che è una fonte enorme di entrata per le casse dell'erario. Però c'è un però, perché come ogni medaglia ha il suo rovescio. Rovescio che nel silenzio dei media pressoché totale, con un'eccezione lodevole del Corriere della Sera e del Sole 24 Ore, che ha avuto una straordinaria relazione della Commissione parlamentare antimafia, che ha messo in evidenza che cosa? Che su questa febbre da gioco esistono enormi rischi e profili di riciclaggio, tanto nel gioco lecito quanto nel gioco illecito. Dicevo, questa relazione, a parte il Corriere della Sera, il Sole 24 Ore con due articoli, non l'ha affilata pressoché nessuno. Per gli amanti di questa materia del gioco, sappiate che nel mio blog Guardie o Ladri io ne ho fatte ben 6 puntate e ho analizzato e sto analizzando tutta la relazione. Chi è il relatore di questo meraviglioso lavoro? È il senatore Luigi Ligotti, che nel passato, per altre mie trasmissioni, è stato già ospite. Buongiorno senatore. Buongiorno. Allora, in questa relazione voi dite chiaro e tondo, io sintetizzo in maniera paradossale e poi lei mi dice: no Galullo, guardi che sta esagerando. Allora, voi dite questo: secondo me va benissimo che l'Italia faccia cassa, che le casse dell'erario siano beneficiate di queste profonde entrate. Oggigiorno il governo si inventa 1000 nuove lotterie, però sappiate che lì di dietro ci sono sempre di più le mani di Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Camorra. È così o non è così, Ligotti? È così, con l'aggiunta che dietro questo fenomeno, e quindi dietro l'interesse dello Stato di far cassa, oltre alla criminalità organizzata con i suoi interessi, c'è la disperazione di tanta gente distrutta da questa sollecitazione al gioco. I costi sociali che noi paghiamo sono enormi. E questo è vero, è talmente vero che un membro della Commissione parlamentare antimafia, Raffaele Lauro, ex prefetto, proprio diceva questo in fase di stesura di questa relazione: dice, è possibile che gli italiani non si rendano conto degli altissimi costi sociali che questa febbre da gioco sta trascinando con sé? Bene ha fatto Ligotti a ricordarlo. Ecco Ligotti, io sono rimasto sorpreso da moltissimi profili che voi avete sottolineato, come ad esempio quello che a me pare incredibile, che in Italia non si sappiano nemmeno quante sono le slot machine operanti. Ma com'è possibile non sapere nemmeno questo dato? È un sistema totalmente fuori controllo, che non si riesce a mettere a regime, perché il sistema dovrebbe funzionare con un collegamento ad una rete che dovrebbe consentire ai monopoli di Stato di registrare l'entità delle giocate e quindi di applicare la tassazione del 12,5%. Secondo le stime della Guardia di Finanza, 200.000 apparecchi sono in funzione ufficialmente, ma altrettanti apparecchi sono in funzione illegalmente. Quindi pensate, non sappiamo nemmeno quante sono le slot machine, sono 400-500 mila, boh, chi lo sa. Pensa che hanno creato i cosiddetti magazzini virtuali, perché una macchina non collegata deve essere messa fuori funzionamento con l'immagazzinamento. Noi abbiamo accertato, attraverso una relazione che è stata fatta un paio di anni fa, che in uno stesso giorno, in uno stesso esercizio pubblico, in un paesino della Sicilia, sono state immagazzinate 27.000 macchine. Mamma mia. Chiaramente era un imbroglio, fatti i monopoli. Certo. Perché immagazzinare significa che è stato fatto solo 27.000 soltanto virtualmente, quelle macchine sono funzionanti. Sono funzionanti. Un'altra cosa che è paradossale e drammatica in questa relazione, però ovviamente, come io amo sempre ripetere, in Italia tirano più le tette e i culi, no? Che non questi che sono in realtà invece i problemi drammatici del nostro paese. Un'altra cosa che mi ha impressionato è che poi alla fine anche i gestori di quelle che dovrebbero essere macchinette lecite, ovviamente non tutti i gestori, non sto generalizzando, ma molti di questi taroccano le macchinette, è giusto, Ligotti? Sì, c'è il fenomeno accertato del cosiddetto schedino, ossia un meccanismo che consente di alterare la lettura della giocata, e quindi è come quando si faceva ai contatori dell'energia elettrica, si metteva la pellicola fotografica. E certo. Cosa. Senta Ligotti, ma voi avete fatto una stima di quello che entra nelle casse delle mafie dal gioco illecito e dai taroccamenti o comunque dalle truffe del gioco lecito dietro il quale c'è sempre le varie organizzazioni mafiose? Noi sappiamo che la gestione, la raccolta lecita ammonta per il 2009 a 53 miliardi di euro, sì. Raccolta lecita. Poi abbiamo questo mercato parallelo che è stimato nella misura quasi pari a quella della raccolta lecita, cioè siamo nell'ordine di 100 miliardi di euro. Quindi 50 miliardi sono leciti, 50 miliardi sono illeciti, ma anche nella parte lecita comunque le mafie in un modo o nell'altro purtroppo hanno una grandissima quota di risorse. Certo, perché ci sta una gestione ormai totale, diciamo, forse non totale, ma una gestione del mercato, della collocazione di queste macchine, con delle imposizioni e con un controllo da parte delle organizzazioni criminali che hanno trovato questo nuovo fronte di far denaro ai danni degli italiani con la complicità, tra virgolette, dello Stato. Assolutamente sì, purtroppo è così. Io ringrazio Ligotti per questa splendida chiacchierata, Paolo Corleone in regia e Laura Faggini in redazione. Vi ricordo che sul mio blog Guardie o Ladri, lo trovate con qualunque motore di ricerca, trovate la bellezza di 6 articoli che in maniera molto diffusa affrontano questo problema della febbre da gioco e relativi mani delle mafie sul gioco stesso. Da Roberto Gallullo una buona giornata a tutti.